si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good. Eccoci qua, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno, buona domenica da Carlo Gabardini. E allora, Carlo, quando sono le 8:36 minuti, domenica mattina, Milano Monterosa, c'è il sole! Oh, oggi sì, siamo oggi molto contenti. Il sole del sud ha raggiunto anche il nord. Infatti avevamo appena acceso i riscaldamenti, adesso non so, spero. Non lo so subito. Se li rispengono subito. In realtà ieri continuava a far freddo, oggi invece stamattina ho effettivamente sentito il termosifone caldolino. Che bello. Allora, 800 24 00 24, vi aspettiamo ascoltatori per stare con noi questa domenica mattina, per stare in diretta, per raccontarci, perché no, le vostre buone notizie della settimana. Facciamo un riepilogo di notizie, dove è possibile vi raccontiamo qualche bella storia. E poi, per esempio, a me questa è bellissima, se ne è occupata anche Radio 24, perché la Basilicata, la regione Basilicata, ha detto: mandateli tutti qua gli immigrati, non c'è problema. Sai che li prendiamo noi, è una gara a scaricarli. Allora, li prendiamo tutti noi, perché si è scoperto che in Basilicata il 90% degli immigrati lavora, posti di lavoro che prima non c'erano, quindi fuori dalle polemiche. Sono arrivati i soldi del magnate egiziano Sawahiris, poi sai, in Basilicata c'è anche il petrolio, non lo so cosa stanno inventando, ma questo appello era molto si può fare. Non lo trattiamo noi, perché lo ha già trattato Alessandro Milan in settimana, ma era una bella notizia. E poi cerchiamo un personaggio della settimana, naturalmente. Come tutte le domeniche, sì. Estate è il primo indizio. Ecco qua il primo indizio, il personaggio che c'è cioè una notizia che lo riguarda negli ultimi 7 giorni, è un vincente. Diciamo così. È un indizio che oggi è così. Bello, giusto, giusto, perfetto. 800 24 00 24. Iniziamo, vai. Vorrei dire, mio padre mi ha detto una cosa fin da quando ero piccolo: fai quel che vuoi che campi di più. Ma no, fai quel che vuoi, nel senso che se non c'hai voglia di alzarti, no, se non hai voglia di seguire un impegno, fregate. No, non in questo senso. Fai quello che vuoi, nel senso più alto, che cosa desideri. E mio padre e mia madre hanno fatto questo. Sono andati avanti nonostante tutto quello che gli hanno fatto. Non hanno piegato la testa. Persona che ci è stata molto vicina. L'Italia perde un capolavoro, un uomo capolavoro. E grazie a lui se faccio questo mestiere. Ricordo da studente liceale che andavo a vedere le prove aperte prima ancora di Palazzina Liberty, in via Colletta, aveva il capannone lì. Ho visto nascere Mister Buffo, Morte accidentale di un anarchico, Storia di un popazzo, insomma molti spettacoli. È riuscito a fare televisione finché gliel'hanno fatta fare, ha fatto anche del cinema, insomma dipingeva, era un artista a 360 gradi. E queste erano le voci dell'ultimo saluto, l'omaggio a Dario Fo. Abbiamo sentito Bisio che parlava, sì, degli inizi di Mister Buffo, di Morte accidentale di un anarchico. Ha detto una cosa molto bella, Bisio: spero che si rida ai funerali di Dario Fo, spero che si rida e si parli poco di politica, perché questo era Dario Fo, cioè soprattutto un giullare, insomma, con una grande carica anche politica, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Poi l'ha sempre avuta più partitica nell'ultima parte della sua vita che politica. Inizialmente più politica in senso lato, se vogliamo. Vero, vero, vero. Comunque in piazza c'era tantissima gente a Milano sotto la pioggia con gli ombrelli, e anche se il figlio Jacopo Fo ha ricordato, adesso sono tutti a venerarlo, sì, ma ricordiamoci, sì, che comunque Dario Fo è stato anche aspramente censurato, e comunque Milano non gli ha mai dato un luogo che fosse un luogo suo, tutta la questione della Palazzina Liberty occupata, insomma. È stato emozionante. Allora, un'altra, un altro si può fare della settimana è questa classifica qua di Save the Children. Ve la voglio dire perché anche questa è passata pressoché inosservata. Allora, nella classifica dei paesi dove è meglio nascere bambine, cioè parliamo delle pari opportunità e soprattutto dei diritti delle donne, che come sapete nel mondo non sempre, anzi spesso non sono rispettati, l'Italia è cresciuta, è salita al 10° posto su 150 paesi nel mondo, quindi siamo messi, facciamoci complimenti, possiamo dirlo per una volta. Bene, ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dove fuggi? In Italia, pistole e macchine. In Italia, Machiavelli e Foscolo. In Italia i campioni del mondo sono. In Italia il vicino che ti spara. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno, allora, ti dirà. Un si può fare che invece è rimasto per ora a metà, è rimasto nelle intenzioni, è la legge sulla cittadinanza ai giovani non italiani, nati in Italia, cresciuti in Italia, vissuti in Italia per tanti anni, che fanno la scuola in Italia e che a un certo punto devono aspettare 18 anni, fare una serie di trafile e poi ottenere questa cittadinanza. In alcuni casi arriva anche un po' tardi. Molto tardi, molto tardi. E loro... giustamente, essendo nati qui, sono i cosiddetti stranieri di seconda generazione. Esatto. Gli italiani, chiedo scusa, di seconda generazione. Vorrebbero sentirsi un po' come tutti gli altri. E allora, visto che questa legge è in attesa alla Camera da un anno, visto che il Presidente del Consiglio Renzi ha detto la faremo, abbiamo deciso di convocare anche per questa domenica mattina Mohamed Talmoun, che è il portavoce della rete G2. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, ricordiamo i fondamentali. Qual è la situazione oggi per questi ragazzi, come è anche il tuo caso, cioè ragazzi o nati in Italia o comunque venuti in Italia piccolissimi che stanno qua praticamente dalla nascita, fanno le scuole in Italia, vivono qua, eccetera, cioè parlano la nostra lingua, però non hanno la cittadinanza. E poi ci racconti anche invece cosa prevede la legge, che però appunto è ancora ferma alla Camera, Mohamed. In realtà la legge è stata approvata da un anno alla Camera, è passato un anno dall'approvazione alla Camera, è in attesa ferma al Senato. Sì, scusa, al Senato passata alla Camera, certo. Sì. La legge attuale, la 91-92, che noi vogliamo assolutamente che venga riformata, si basa sul principio dello ius sanguinis, un principio per cui la cittadinanza si passa con il sangue, e chi è italiano, chi discende ha almeno un genitore italiano. Questa legge attuale che è in vigore ancora in Italia, secondo noi non fotografa la realtà di 1,5 milioni di figli di immigrati che invece, pur essendo nati da genitori stranieri, si sentono italiani a tutti gli effetti, perché come dicevate voi, o sono nati qua in Italia oppure sono arrivati da piccoli e hanno passato la maggior parte della loro vita qua in Italia. Certo, perché diciamo una cosa, scusa se interrompo, poi ti faccio proseguire. Immedesimiamoci un attimo in queste situazioni, no? Io sono, che ne so, figlio di due genitori, mettiamo marocchini, però sono nato in Italia, quindi praticamente intorno a me c'è l'Italia dalla nascita. La tua lingua è l'italiana, hai studiato in italiano, tutti i tuoi amici sono italiani, ti senti italiano. Certo, in casa ho dei valori di riferimento che fanno parte del Marocco, ho tutta la mia cultura, però ho anche e soprattutto la cultura nella quale sono immerso dalla nascita, e qui c'è un grosso punto interrogativo, perché mi chiedo qual è la mia cittadinanza. Può essere che sia solo la cittadinanza d'origine di un paese che io forse non ho neanche mai visto, e qui appunto, esatto, ti ho interrotto. Sì, è proprio questa la realtà della maggior parte dei figli di immigrati. Siamo tutti nati qua in Italia o arrivati da piccoli e ci sentiamo con la cittadinanza magari del paese di origine dei nostri genitori, che è un paese lontano, sia italiana a tutti gli effetti, perché viviamo in Italia, i nostri amici sono italiani, abbiamo frequentato le scuole italiane e siamo italiani. Anche perché questa legge è servita negli anni a tutelare la situazione contraria, cioè gli migranti italiani che andavano all'estero, i loro figli si portavano dietro la cittadinanza italiana, perché era giusto, c'era un grosso flusso di emigrazione all'esterno, quindi noi questa legge l'abbiamo fatta anche per questo, per tutelare quelle persone. Oggi però il mondo è cambiato, la situazione è diversa e la situazione a tutelare è quella di voi, ragazzi nati in Italia, che vi sentite italiani. Per esempio, in molte situazioni dovete aspettare del tempo. Tu hai scritto un libro che parla dei ragazzi che fanno sport e tutte le difficoltà che si incontrano. Adesso ci racconterai tutto tra poco, perché ci fermiamo per una piccola pausa per il traffico. 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo anche per cercare di indovinare un personaggio della settimana. E il primo indizio che abbiamo detto è che... un vincente. Perfetto, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ci sono cose che nessuno ti dirà. E allora, caro Mohamed Talmoun, portavoce della rete G2, stavo dicendo, tu hai scritto anche un libro per raccontare le storie di ordinaria attesa della cittadinanza da parte, per esempio, di ragazzi che fanno sport e che magari potrebbero dare un contributo anche nelle nazionali, ma questo non è possibile perché appunto manca la cittadinanza. Solo un esempio, magari minore, perché lo sport è una cosa importante, anche se non... È minore, ma più preciso, perché ce ne rendiamo subito tutti conto quando vuoi un campione invece che segna i mondiali di calcio. Esatto, esatto. Ma allora, mi viene in mente le ragazze della staffetta 4x4 che hanno stabilito il record italiano all'ultima Olimpiadi a Rio. Tre di loro hanno preso la cittadinanza a 18 anni perché sono state fortunate, è andato tutto bene, eccetera, però per tutta la loro carriera da atlete hanno sofferto, lo dicono anche in un paio di interviste, la questione di non sapere se poter correre per la nazionale italiana oppure no. Eppure quando sono andate a Rio hanno stabilito il record italiano di specialità, diciamo. Sì, e sarebbe buono che venisse data la cittadinanza anche a chi non è il più veloce del mondo, nel senso che uno poverino può anche correre un pochino più lentamente e forse avere lo stesso il diritto ad avere la cittadinanza italiana, anche se non vince tutte le volte che va al lavoro la medaglia d'oro. Assolutamente sì, infatti nella riforma di cui si parlava prima, che è ferma al Senato, si chiede che la cittadinanza, come ovvio che sia e succede in moltissimi paesi del mondo, venga concesso prima dei 18 anni al minore, insomma, che nasce o vive in Italia, perché è nel periodo di formazione, diciamo, no? A scuola, eccetera, che va stabilito il patto con questo nuovo cittadino, no? Tu sei italiano, ti tratto da italiano, voglio che rispetti i valori della cultura italiana e ti comporti da italiano e ti do tutte le chance come tutti i tuoi coetanei. Certo. Questo ricordo agli ascoltatori che stiamo parlando non di immigrati in generale, ma di figli di immigrati nati in Italia, cioè di ragazzi nati qua che fanno tutta la loro vita nel nostro paese e, come dicevi tu prima, possono, in base alla legge attuale, ottenere la cittadinanza italiana raggiunti i 18 anni, se va tutto bene, altrimenti passa dell'altro tempo, perché le trafile sono lunghe, la cosa non è così semplice. No, assolutamente. Noi tutti ricordiamo il caso più eclatante, che è quello di Balotelli, che ha dovuto aspettare fino a 18 anni prima di poter gareggiare per la nazionale italiana, quindi giocare nella nazionale italiana, nonostante che, per esempio, Balotelli è uno di quei casi che rifiutò le avance, le proposte, insomma, della nazionale, della sua cittadinanza di origine, dei suoi genitori, perché voleva giocare con la nazionale italiana. L'abbiamo fatto aspettare fino ai 18 anni. Ma scusa, nel momento che uno invece compie 18 anni, chiedere la cittadinanza italiana è semplice? Allora, se uno nasce in Italia e passa qui tutto il tempo, diciamo, trascorre qui tutto il tempo della sua vita in Italia e frequenta le scuole, eccetera, c'è la legge attuale prevede che prima di 18 anni si faccia domanda, diciamo, anzi, al 18 anno di età, in realtà si faccia domanda di cittadinanza. E fra i 18 e i 19 anni, se tutto va bene, si compie l'iter, si può diventare italiani. Quindi se uno nasce qui al compimento del 18 anno, in realtà con un iter che non è semplicissimo, ma comunque che esiste, diventa cittadino italiano. Il problema è che voi dite bisogna diventare cittadini italiani prima dei 18, di modo che un ragazzo appunto stipuli un patto con il suo paese decidendo di essere italiano prima dei 18. Non solo, ma noi conosciamo tantissimo, anzi pieno, diciamo di storie di ragazzi che arrivano magari a 3 mesi, 2 mesi in Italia perché nati all'estero. Sì. E perché sono arrivati 2 mesi, 3 mesi, insomma, dalla nascita e passano tutta la loro vita fino ai 18 anni qua, non possono accedere a questo tipo di procedura perché nemmeno dopo i 18 anni, perché non sono nati neanche loro. Ah, quindi questo è il problema, perdonami. Uno è, tu dici, prima dei 18 anni. Due, ci sono bambini che arrivano a un giorno e sono nati in un altro posto, ma quando compiono il primo giorno di vita sono già in Italia, per fare un esempio, ovviamente. Loro invece, per loro è molto difficile o è impossibile avere la cittadinanza italiana? È molto ma molto difficile, perché a quel punto loro hanno il percorso quello che hanno gli adulti, quindi devi dimostrare anni di residenza, devi dimostrare il tuo reddito, c'è una procedura che passa in prefettura, devi avere l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, dal Ministro dell'Interno, viene fatto un decreto che viene firmato dal Presidente della Repubblica, quindi è una procedura complessa che fa passare del tempo. Che fa perdere del tempo, perché la legge dice dopo 2 anni che tu hai fatto domanda, ma in realtà non succede mai che dopo 2 anni dalla domanda tu ottieni una risposta sulla cittadinanza. In genere passano 2, 3, 4. Ma è il modo però per farvi capire che siete benvenuti in Italia, cioè di trattarvi come veniamo trattati tutti noi, dove la risposta invece che dopo 2 anni arriva dopo 20. Quindi su questo, se mi permetti, tutti avanti insieme, ma con lentezza. Noi per il momento ci fermiamo qua. Grazie, Mohamed. Grazie mille. Grazie a voi. Il portavoce della rete G2. Allora, ripeto, questo è un argomento naturalmente sensibile. Si possono avere delle opinioni differenti. Per noi è un si può fare, perché cerchiamo di immedesimarci in questi bambini, no? Che non hanno nessuna responsabilità per le scelte che possono aver fatto i loro genitori o le scelte del mondo intero, i flussi migratori, eccetera. Sono i compagni di scuola dei nostri figli, e allora ci piacerebbe che avessero una vita come quegli altri. 800 24 00 24, naturalmente aspettiamo i vostri interventi su questo. Intanto, Roberta da Bari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Avrei tentato una soluzione, sì, al gioco. Ho pensato a Bob Dylan, visto che è stato appena nominato Nobel per la letteratura. Certo. Direi che questa settimana ha vinto lui. Forse era un po' facile per noi come personaggio della settimana cominciare con l'indizio un vincente, infatti non era lui il personaggio. Grazie Roberto. Però grazie di aver chiamato. Ed averci ricordato Bob Dylan. 800 24 00 24, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Che le sta succedendo, signor Presidente del Consiglio? Lei ha parlato questa mattina, oltre mezz'ora, sul nulla. L'onorevole Brunetta ha iniziato il suo intervento dicendo: caro Presidente, lei ha parlato del nulla. No, non stavo parlando di lei, Presidente Brunetta. Stavo cercando di affrontare un tema, colleghi, di discussione un pochino. Colleghi, per favore. L'onorevole Brunetta, evidentemente giù di morale per l'ennesima mancata assegnazione del Nobel, che anche quest'anno incomprensibilmente non è andato da quelle parti, ha espresso, colleghi, ha iniziato, colleghi. Vabbè, siamo partiti così, un po' di schermaglie, lo sapete, vi facciamo risentire un po' di voci della settimana e... dell'arena proprio, sì, sembrava, sì, sembrava l'arena con i leoni. Allora, qua si discuteva naturalmente del referendum. Ah, pensavo del Nobel. No, esatto, no. Questo era Brunetta, era Renzi che pigliava in giro Brunetta. Sentiamo un'altra voce, perché insomma, Renzi sta cercando di recuperare consensi all'interno del partito, ha annunciato una commissione dentro il PD. È una roba veramente di fantapolitica, però per rimettere in discussione la legge l'Italicum soprattutto, ma anche modifiche postume alla riforma costituzionale postume, una volta dovesse essere approvata, insomma è complicatissimo, per cercare di recuperare qualche consenso nel PD e andare un pochino più sicuro al referendum del 4 dicembre. Sentiamo Bersani. Invito tutti i commentatori a levarsi dalla testa il tema scissione. Per quel che riguarda me, portarmi fuori da casa mia si può riuscire, cioè dal mio partito, si può riuscire solo la Pinotti schierando l'esercito. Con meno non succede. Cioè, devo dire che Bersani rimane sempre un... cioè, che regala, insomma, dai. Nella classifica dei comici, sì, perché sentiamo Brunetta che attacca Renzi con delle argomentazioni, Renzi che risponde: non sto parlando di lei, parlando di nulla. Ormai Bersani Renzi sta diventando un genere tipo Sandra e Raimondo, eh? 800 24 00 24. In realtà, cari ascoltatori, vi abbiamo chiesto di indovinare un personaggio della settimana. Tra poco sarà con noi il super ospite delle 9:15. Intanto sentiamo gli ascoltatori. Il personaggio della settimana, abbiamo dato un indizio, è un vincente. Antonio da Piacenza, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Posso dire subito, sì, il nome? Può dire secondo... quello che vuole. Secondo me è Mark Zuckerberg, perché ho sentito che ha investito una valanga di soldi per avviare una ricerca scientifica approfondita sugli esseri umani per arrivare addirittura a eliminare le malattie. E questo lo ha fatto perché lui è diventato papà da poco e vorrebbe arrivare a un mondo in cui sua figlia possa trovarsi in un mondo in cui non ci sia malattia. Meno male che ha avuto questa figlia Più follower, soprattutto una vita con più follower, direi. Sì, insomma, mi ha colpito questa notizia qui. Sì, la notizia, se non sbaglio, è un po' più vecchiotta di questa settimana. Si parla di questa donazione, sì, alla ricerca. Adesso, eccolo, ce l'ho qua, 3 miliardi alla ricerca. Vogliamo sconfiggere tutte le malattie. È di settimana scorsa ed è questo il motivo per cui in realtà... non è lui il personaggio, Però siamo contenti di aver ricordato la notizia di Zuckerberg che dona soldi per la ricerca. Grazie Antonio. È un bel esempio da seguire. Sì, vero. È un bel esempio da seguire. Scusi, posso, visto che non avete detto, posso dire tutto, posso farvi una piccola osservazione? Certo. Anche due. Siete bravissimi, molto bravi, anche quello che avete sottolineato per esempio poco fa dell'importanza di accogliere gli emigrati, eccetera. Però vi pregherei di non continuare a sostenere che l'omosessualità è scontato che sia una cosa normale. Cioè, l'omosessualità, secondo la maggior parte della gente, me compreso, è un'anomalia all'interno della Ma cosa vuol dire anomalia? Però, mi scusi, anomalia? Mi scusi, in realtà... Anomalia vuol dire che non è la normalità. Però purtroppo, voglio dire, quello che pensa... deve avere delle limitazioni. No, però mi scusi, ma se l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è una variante naturale del comportamento umano, onestamente quello che pensa lei o altri... è la prima volta che i capoccioni sbagliano qualche cosa e poi dopo si ricredono. Comunque, per il pensare comune... vale quello che è sempre valso nella storia dell'umanità, e cioè che le cose che diciamo riguardano una minoranza degli esseri umani sono considerate una cosa anomala rispetto invece. Ma no, però mi scusi, le minoranze non sono anomale, però mi scusi, non sono anomale, però le minoranze non mi sembra, nel senso che mi perdoni, essere mancini, io non penso che sia una questione anomala che quindi debbano per esempio non potersi sposare. Io questo non penso. Infatti, no, ma se... i mancini si possono sposare benissimo. E gli omosessuali? Gli omosessuali, se si sentono, si possono mettere insieme, ma sul fatto di adottare dei bambini che non possono avere, e quello secondo me non è corretto. Va bene Antonio, però posso dire una cosa, questo argomento non c'entra nulla stamattina, no, no, però, puntata, no, se no stiamo qua fino alle 10 ma a con me c'entra questa, sempre, sì, quindi sì. Ci mancherebbe, no, no, accogliamo, però no, ammetto di non condividere minimamente del fatto che, siccome secondo lei tra l'altro il sentire comune è che gli omosessuali siano anormali, quindi gli omosessuali sono anormali, non lo penso per nulla. Posso aggiungere una cosa io, che l'omosessualità, Antonio, è antica quanto il mondo, e quindi questa anomalia di cui lei parla è un'anomalia quantomeno che ci portiamo avanti da sempre, quindi, e anche nel mondo animale, mettiamoci il cuore in pace forse. Comunque, grazie Antonio, ciao, buona giornata. Grazie. Allora, Elio da Crema, buongiorno, benvenuto. No, Elio è caduto. Franco da Chieti, allora abbiamo forse Franco. Buongiorno, buongiorno, benvenuto Franco. Salve, intanto devo ispirarmi molto agli Stati Uniti, perché è un paese che ha fatto della multietnicità una grande risorsa, è diventato un grande paese. Anche un grande ebreo, almeno di origine Woody Allen, diceva basta che funzioni. Nei suoi ultimi film si ispira molto a questa saggezza, a questa filosofia. La mia domanda che vi faccio è approfondire un po' di più quello che gli Stati Uniti ha fatto e fa per quanto riguarda i bambini, i migrati, per quello che è tutto il discorso di diventare americani. Ius solis, in due parole. Se nasci lì sei cittadino. Franco, sentiamo male perché c'è un rumore di sottofondo, forse si trova in macchina. Grazie, vuol giocare con noi, vuole provare a indovinare anche il personaggio della settimana? No. Sì, ci voglio provare. È un vincente. Antonio Conte. Perché? Perché ha vinto contro la prima in classifica in Inghilterra. Sì. È l'ex i campioni uscenti della League inglese. Come vincente assolutamente lo accettiamo. Sarebbe stato molto bello se avesse vinto il concorso così dicendo sì sì, voglio dare la risposta. Purtroppo non è il personaggio che avevamo pensato. Grazie pensato, Franco, ma grazie di aver chiamato. Buona giornata. Dopo le informazioni sul traffico vediamo il secondo indizio. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questi Green Day, belli grintosi. Carlo, diamo il secondo indizio. Diamo il secondo indizio. Il personaggio che stiamo cercando si è rialzato dopo una caduta. Quindi primo indizio è un vincente, secondo indizio si è rialzato dopo una caduta. Conosci il tuo nemico, è questo il titolo della canzone dei Green Day, ed è un gioco di parole perché vogliamo parlare con Corrado Formigli. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno a voi. Eccolo, buongiorno. Qua, eccolo qua, li facciamo fare straordinari anche di domenica mattina. Lui del suo nuovo libro, Il falso nemico, perché non sconfiggiamo il califfato nero, è il sottotitolo, un libro che parla, insomma, l'avete capito, dell'ISIS, ma parla di tante cose. Soprattutto un reportage tuo, dei tuoi viaggi che hai fatto in questi luoghi. E devo dire che questo è il primo motivo per cui ti abbiamo invitato, è questo, perché un giornalista di studio, un conduttore, il VIP, il conduttore del programma che tutti lo vogliono, tutti lo inseguono, che però poi zaino in spalla, conduttore il lunedì ma per tutto il resto della settimana ha addirittura l'elmetto in testa, sì. il giubbotto antiproiettile ed è sul campo in trincea. È un bel si può fare per noi, Corrado. Beh, intanto quest'anno per fortuna mi sono spostato al giovedì, che è un pochino più semplice per l'organizzazione, ma è vero che questo libro è il racconto di una serie di viaggi che ho fatto, in alcuni casi veramente in modo, diciamo, strappandoli, diciamo, alla conduzione di Piazza Pulita, quindi tra una settimana e l'altra. In realtà uno di questi viaggi l'ho fatto quest'estate a fine stagione in Iraq con 54 bei gradi, però ho avuto almeno un po' più di tempo per rimanere. Cioè, capito, mentre là gli altri se ne stavano in vacanza al sole, Corrado Formigli durante le sue vacanze. Il sole ce n'era, vi assicuro, non mancava. Un filino troppo, ecco. Anche troppo. No, dico che sono stato appunto alla presentazione del tuo libro l'altro ieri e la cosa che più mi colpiva era esattamente questo. Chiedo scusa di aver sbagliato il giorno, ovviamente adesso è il giovedì, ma mi piaceva molto questa idea proprio di vederti che dalla camicia bianca andavi in camerino, ti cambiavi senza dire niente a nessuno, perché da come raccontavi in realtà non amavano tanto che tu durante la settimana andassi proprio nella zona di guerra, e quindi per quel motivo mi sembrava molto interessante finalmente di vedere appunto abituati al conduttore, che in realtà per il resto sta lì solamente a fare i complimenti ai propri inviati, invece poi partire come inviato. Ma lì ci sono due questioni. La prima è che io mi considero un inviato e penso che l'inviato sia il mestiere più bello del mondo, e penso che rimanere inviati, anche se si è conduttori, sia il modo anche per avere stringere un patto di serietà con il pubblico, cioè dire al pubblico: guardate che io continuo a raccontarvi delle cose che ho visto con, giusto, i miei occhi. Giusto. La seconda cosa è il rapporto con le persone che lavorano con me, nel senso che noi abbiamo costruito una squadra di giovani inviati bravissimi, devo dire, di filmmaker e montatori bravissimi, e c'è un rapporto veramente di grande scambio. Cioè io ad alcuni anche molto giovani sto insegnando a fare questo mestiere, però per insegnare devi dimostrare di essere ancora tu in grado di farlo quel mestiere, no? Per avere, diciamo, la fiducia dei tuoi ragazzi. Quindi ogni tanto vado io e quindi rinverdisco questo rapporto, diciamo, è giusto, con loro, no? È un bel esempio, devo dire. Se lo seguissero anche qualcun altro. Esatto, diciamo che non tutti quelli che insegnano, non tutti quelli che insegnano fanno così, ma i veri insegnanti. Siccome sì, noi siamo un po' lentini, come il Sorrentino, forse, di Crozza, ci spieghi il titolo, prima di spiegarci il libro, Il falso nemico? Dov'è che abbiamo, parli dell'ISIS, naturalmente, dov'è che abbiamo sbagliato a inquadrare un po' il nemico? Parlo innanzitutto dell'ISIS perché io penso che l'unica ragione per cui l'ISIS sia cresciuta a dismisura e abbia occupato in due anni un territorio grande come la Gran Bretagna, l'unica ragione è perché abbiamo lasciato che accadesse. Questo è stato fatto soprattutto tra il 2014, in tutto il 2014 e 2015, da alcune potenze. E d'altra parte ne abbiamo una controprova proprio in questi giorni. Non so se state seguendo la vicenda delle mail sottratte a Hillary Clinton, sì, da WikiLeaks, che sono state diffuse probabilmente grazie agli hacker russi. Ci sono alcune mail, c'è una mail in particolare in cui Hillary Clinton dice: l'ISIS è stata finanziata dall'Arabia Saudita e dal Qatar. Era destinato ovviamente a essere riservata, questa mail è stata portata alla luce, ma è l'ennesima dimostrazione che alcune potenze hanno usato l'ISIS come pretesto per combattere altri nemici. L'Arabia Saudita aveva bisogno di tenere sotto controllo le potenze sciite, l'Iran innanzitutto, le popolazioni sciite della zona del Medio Oriente, e quindi dovete immaginare in qualche modo che l'ISIS sia stata un po' una sorta di cane rabbioso al guinzaglio dei sauditi oppure delle monarchie del Golfo per tenere a bada appunto i nemici. Dopodiché questo cane rabbioso è sfuggito di mano perché è troppo sanguinario anche per il loro padrone e quindi si sta cercando di fermarlo, ma ci sono state delle complicità anche da parte della Turchia, perché la Turchia, in realtà il vero nemico della Turchia non era l'ISIS, ma era il dittatore della Siria, e quindi ha permesso che i jihadisti attraversassero la Turchia, il territorio turco, per andare a arruolarsi nell'ISIS in funzione anti-Assad e anche anti-curda. È un gioco di specchi, diciamo, ho capito persino io qualche cosa, devo dire. Ma senti, ma quindi se l'Arabia Saudita ha utilizzato l'ISIS contro l'Iran, l'Iran è ridiventato buono? Perché c'è stato un periodo, ti ricordi, nel quale l'Iran sembrava il paese più pericoloso, le dichiarazioni contro l'Iran. Non è un caso che Obama abbia portato a termine uno storico accordo diplomatico con l'Iran, proprio per cercare di controbilanciare, per cercare di creare un alleato in quella zona per fermare il dilagare dell'ISIS. E quindi l'Iran in questo momento sta svolgendo una funzione importante, per esempio proprio per contenere il pericolo dell'ISIS, sia in Iraq per esempio. Cioè, in Iraq ci sono molte milizie sciite che sono finanziate direttamente da Teheran per bloccare l'ISIS. Naturalmente queste milizie sciite, che quindi sarebbero diventate buone in questa narrazione che vi sto facendo, in realtà non sono buone affatto, perché sono anche loro organizzazioni spesso nella lista delle organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti, per esempio, e qui ancora una volta la maschera del califfo si scompone e non tutto è come sembra. Fatemi dire che c'è un altro falso nemico però, sì, a cui si riferisce il titolo, che sono i profughi, che noi percepiamo troppo spesso come nemici, come portatori di terroristi. In realtà la tesi del mio libro è che i profughi, per esempio i profughi siriani che scappano dalla guerra, che scappano da delle sofferenze indicibili, possono essere, se ben integrati, il nostro antidoto contro il fondamentalismo, il nostro antidoto contro il terrorismo. Perché? Possono essere i nostri alleati. Perché secondo te possono essere alleati contro... Perché le persone che vengono, le persone, famiglie che sono state decimate... Hanno visto da vicino l'orrore, quindi sanno... Hanno visto l'orrore e sono loro i primi nemici del terrorismo. Sono motivati, ecco, mettiamola così. Pensate una cosa, quando il piccolo Aylan Kurdi, quel bambino di 5 anni, morì annegato sulla spiaggia di Smirne, ci fu un'enorme commozione. In Occidente la Merkel decise di aprire le porte ai profughi della Siria. Sì. Nello stesso tempo quella fotografia fu utilizzata dall'ISIS in chiave contraria, cioè loro presero quella foto, la postarono sul web e dissero: vedete cosa succede se andate in Occidente? Fate quella fine. Era un monito ai profughi, perché il califfo sa che i profughi in Occidente possono essere un problema per l'ISIS e quindi preferisce tenerli come carne da cannone, carne da terrorismo in Medio Oriente. Ma tu che hai visto anche più da vicino, sicuramente di noi, l'ISIS, questa entità a volte anche sembra un'entità metafisica quasi, no? Cioè è in grado di fare tutto e il contrario di tutto. Cosa hai capito di più dell'ISIS vedendolo più da vicino, Corrado? Beh, innanzitutto che ha ingigantito la sua immagine attraverso uno straordinario gioco di propaganda, di specchi, si è mostrata più grande di quello che non fosse, usando il web e la propaganda digitale in una maniera straordinaria, appropriandosi dei linguaggi, dei codici dell'Occidente. I filmati di propaganda dell'ISIS nei suoi momenti d'oro ricordano il linguaggio di Spielberg, il linguaggio hollywoodiano, quindi teniamo conto che molti lo citano proprio. Lo citano direttamente, sì, citano, sì, i grandi giochi, i grandi videogames occidentali. Tenete conto che i migliori cervelli dell'ISIS sono spesso persone che si sono formate in Occidente, che sono tornate dall'America o dall'Inghilterra e si sono arruolate in Siria. Ho capito questo e ho capito un incredibile gioco di complicità. L'ISIS è riuscita a conquistare una città da 2 milioni di abitanti, come Mosul, perché la popolazione civile, pur di non essere governata dal governo centrale di Baghdad, che è un governo sciita, ha preferito aprire le porte all'ISIS, perché quelli dell'ISIS sono sunniti, e quindi le tribù sunnite, per un gioco settario hanno preferito l'ISIS al governo centrale, ma gliene incolse perché poi Mosul è diventata la più grande prigione a cielo aperto d'Iraq. Ma questo per farvi capire come è complicata la situazione sul territorio. Un'ultima cosa che ho capito è che l'ISIS sta perdendo decisamente terreno sul campo adesso, ma il problema è che, come purtroppo abbiamo visto quest'estate, le metastasi di questo cancro sono in circolo in Occidente ormai, attraverso appunto i lupi solitari, dei terroristi difficili da individuare. Cioè, più si indebolisce nel suo territorio, più si indebolisce lì, più paradossalmente forse si ramifica. Ha una doppia valenza. L'ISIS è uno stato con un suo territorio e su quel fronte è in arretramento, ma è anche un'ideologia pervasiva che purtroppo si diffonde sul web e trova nuovi adepti anche nelle nostre città. Ma infatti tu dici a un certo punto, dici, c'è una guerra in corso e non la stiamo vincendo. Adesso, sentendoti parlare, tu giustamente dici l'ISIS ha delle difficoltà, ma in realtà è come se avessero già immesso questo virus e per cui è tutto molto rischioso a questo punto. Non la stiamo vincendo proprio per questa ragione, perché da una parte siamo immersi nella paura di nuovi attentati e non abbiamo ancora capito come arginare il nuovo fondamentalismo che cresce in Occidente ed è soprattutto opera di cittadini, di immigrati di seconda generazione, quindi persone che hanno il passaporto europeo. Poi c'è un altro tema, ed è il tema secondo me in questo momento principale. Ad Aleppo si sta consumando una delle più grandi tragedie del dopoguerra. In Siria, sono 5.000 ad Aleppo in Siria, sono morti 5.200 bambini, soltanto che lì non c'è l'ISIS, ad Aleppo c'è la popolazione civile e poi c'è Al-Qaeda, ve la ricordate Al-Qaeda? Certo. Ecco, allora, siccome i bombardamenti da parte del dittatore Assad e dei russi sulla popolazione civile sta facendo una carneficina, l'unica entità sul terreno che in qualche maniera fa resistenza è Al-Qaeda. Pensate che gli americani si stanno ponendo il tema se armare Al-Qaeda, che lì si chiama Al-Nusra, armare Al-Qaeda per fermare le bombe dei russi e di Damasco. Pensate, ecco, ma sono sempre gli stessi problemi. Riesci, no? tu sei stato in questi luoghi, sei preciso, parli chiaramente, finalmente si capisce qualcosa. In 30 secondi a mia nonna a spiegare chi è che sta contro chi in Siria, cioè che succede, perché c'è ancora la guerra in Siria, chi è che sta combattendo? In Siria c'è un dittatore terribile che si chiama Assad, che è spalleggiato dai russi che vogliono mantenerlo al potere. E sul terreno c'è Al-Qaeda e ci sono una serie di jihadisti, cioè di estremisti islamici di vario tipo, che sono nemici di Assad e che sono in particolare concentrati ad Aleppo Est. Assad deve sterminarli con l'aiuto dei russi per mantenere il proprio potere in Siria. ISIS c'entra poco o niente. Ma noi che siamo persone più o meno normali, più o meno, perché insomma ognuno con i suoi difetti, ma da quale parte dovremmo stare? Cioè, non ci sono buoni. Gli unici dovremmo stare dalla parte dei civili e dei bambini ammazzati, perché per colpire Al-Qaeda e gli estremisti ad Aleppo Est, i russi e i siriani stanno bombardando indiscriminatamente quartieri dove vivono persone normali. Per questo sono morti 5.200 bambini e innumerevoli civili. Ci sono i medici di Senza Frontiere negli ospedali da campo di Aleppo Est che lavorano 24 ore su 24, dormendo a turni di mezz'ora per cercare di salvare le vite. Noi dobbiamo trascinare in tutti i modi Putin a un tavolo e costringerlo a fermare Assad e a fermare le bombe. E non esiste, secondo me, l'obiezione che si sta facendo adesso: non possiamo costringere Putin, perché non possiamo fare embarghi a Putin, perché sennò le nostre aziende ne verrebbero danneggiate, perché qui c'è in gioco la vita di migliaia e migliaia di bambini che non saranno i nostri, sono i bambini degli altri, ma sono sempre bambini. Ed è un'obiezione che io considero immorale, quella del tema: l'embargo non si fa perché ci danneggia economicamente. Chiaro. Chiarissimo. Posso farti una domanda che c'entra poco? Forse c'entra sì, poco. Certo. E che di solito hai un punto di vista che mi illumina, e c'è una questione che sto capendo poco. Che citavi anche prima la questione delle mail alla Clinton. Che cosa sta succedendo invece su questa lotta su internet, diciamo, su leggere le mail, la lotta fra Russia e America, che sembra un po' anche richiamare la guerra fredda, che forse non è mai finita, quando addirittura gli americani dicono sono stati i russi a rubare queste mail, e adesso ieri si sentiva Obama ha programmato un attacco cyber alla Russia. Sta succedendo una cosa molto semplice, i russi tifano per Trump si è dichiarato apertamente filo russo, che tra l'altro è un elemento di novità totale direi americano. Quindi che cosa fa Mosca? Mosca cerca attraverso attacchi di hackeraggio di rivelare le mail riservate di Hillary Clinton per delegittimarla e quindi screditarla agli occhi degli elettori americani, facendola apparire come un'ipocrita e come una persona non migliore di Trump. Si usano questi hackeraggi per screditarla. A questo Obama cercherà di rispondere attraverso un altro attacco informatico. Tutto ciò mi fa un'enorme paura, come potete immaginare. Anche a me. Perché oggi, diciamo, la battaglia digitale è una battaglia che apparentemente meno violenta, ma può portare a un'escalation terribile. Per questo io penso che l'unica possibilità oggi sia la diplomazia, che non è un pranzo di gala e non è una stretta di mano o una cena elegante. La diplomazia è anche prendere delle misure dure nei confronti della controparte, ma visto che non credo che qualcuno possa pensare che si possa andare a bombardare i russi senza tenere una nuova guerra mondiale, mi pare l'unica strada possibile. Certo. Grazie Corrado Formigli. Grazie mille, veramente. Ciao, grazie, buona domenica. Il falso nemico. I vostri ascoltatori. Perché non sconfiggiamo il Califfato Nero è il suo libro. Sta dentro anche le cose bellissime, purtroppo non ho fatto tempo a chiedere, ma ha raccontato dentro nel libro anche un aneddoto bellissimo di quando lui arriva a Kobane e a un certo punto gli arriva una mail della sua assicurazione che gli dice che è scaduta la sua assicurazione. E quindi Corrado chiama a casa la moglie dicendo pagami l'assicurazione perché sto entrando a Kobane. Son dolori. Vabbè, leggete il libro, è molto bello. 800-24-0024, cerchiamo un personaggio della settimana, si è rialzato dopo una caduta, vi aspettiamo tra un attimo, dopo la pausa. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su RDS.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 9:37 minuti. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Ben ritrovati. Abbiamo Christian che ci chiama da Modena. Buongiorno Christian, benvenuto. Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno. Eccolo qua. Scusa, volevi intervenire Christian? Volevo intervenire dando, secondo me, quello che è la risposta al quiz di stamattina. Sì. Secondo me è Bibilio. Passaggio della settimana, perché non l'ho sentito di Bibi Vio, quella la ragazza paralimpica che ha vinto le Olimpiadi di Scherma. Certo. La notizia della settimana è che è stata invitata alla Casa Bianca a mangiare insieme a Renzi quando andrà Renzi là. Sicuramente la vincente, sicuramente si è rialzata da un buon infortunio, tra virgolette, e secondo me era lei, era solo per questo. Sì, è stata invitata un gruppo, credo, di altre donne, a rappresentanza in qualche modo delle donne italiane alla Casa Bianca, ha fatto notizia, poi è un personaggio lei straordinario, in veramente, effetti. Veramente stupendo. E quindi grazie, anzi Christian, per averci... Ti abbiamo lasciato raccontare la storia, perché la storia è bellissima e siamo contenti di averla ricordata. Non è il personaggio che avevamo scelto. Grazie mille di aver chiamato. Ciro dalla provincia di Barletta, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, io avevo pensato a Valentino Rossi. E come mai? Perché ha vinto l'Apollo nella gara di motociclette che si deve motociclismo. assolutamente, ma non era neanche lui il nostro personaggio. Ti chiedevo come mai, perché dicevo, siccome si è rialzato da una caduta, dicevo, è caduto in questo istante e non lo sapevamo. Grazie Ciro, grazie. 800 24 00 24, un personaggio che si è rialzato dopo una caduta è un vincente anche, e se non basta, tra poco arriviamo anche con un altro indizio. E allora, sulle note della Pantera Rosa, abbiamo una bella notizia, un si può fare, che ci riporta ancora una volta a una piccola eccellenza italiana, che è l'Università di Trento, che ha messo a punto un algoritmo detective, così hanno scritto i giornali, che smaschera... Ecco, finalmente spiegato la Pantera Rosa, il detective. Smaschera i falsi sul web, e lo fa tanto bene che è stato coinvolto dall'Europol, addirittura, in un progetto europeo. Ecco, noi di nuovo Andrea Di Nicola, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Andrea Di Nicola, che è un ricercatore del gruppo di ricerca e-crime dell'Università di Trento. Voi in qualche modo studiate il crimine in tutti i suoi spunti. L'altra volta ce l'avamo sentiti per un'altra storia, magari poi rinfreschiamo anche quella, perché era una bellissima storia anche quella, che per migliorare la nostra sicurezza. Ecco, in questo caso l'algoritmo detective che smaschera i falsi sul web. Cominciamo, se ho capito bene, dai falsi soprattutto nel mercato dei farmaci. Si vendono e si comprano tanti farmaci online e senza ricetta, soprattutto senza ricetta. E a volte in realtà c'è una nuova direttiva che è entrata in vigore in Italia di recente, e nell'Unione Europea si possono vendere farmaci online, si devono vendere farmaci online. In Italia si possono vendere solo quelli senza prescrizione, quindi già questa è una prima regola: non comprare farmaci per cui è richiesta una prescrizione online, se siamo italiani, da siti che parlano italiano. Però anche nell'ambito dei farmaci senza ricetta, senza prescrizione, sono farmaci anche quelli, c'è un grande mercato. C'è un grande mercato, c'è contraffazione, ma stiamo parlando di farmaci di tutti i tipi, dimagranti, farmaci per le disfunzioni erettili, steroidi, ma anche antibiotici, antidepressivi. Il mercato è fiorente, c'è di mezzo la criminalità organizzata e vale milioni e milioni di euro, e si stima che circa il 95% dei siti internet che vendono medicinali siano illegali, cioè vendono medicinali contraffatti. Ah, però, quindi, 95%, cautela. Ah, però, cavolo. È più facile che sia illegale, proprio di gran lunga. È più facile che sia illegale, ma con alcune regole possiamo comprare con attenzione. Ecco, perché l'algoritmo che avete messo a punto è una cosa complessa, naturalmente, e appunto lo avete in qualche modo messo a disposizione dell'Europol in un'operazione più grossa. Però forse qualcosa si può dire anche così, come indicazioni per i comuni mortali, no? Come si fa? Si dovrebbe, oggi sui siti internet online legali c'è un bollino, un logo da cui bisogna iniziare, il logo dell'Unione Europea, che rindirizza i siti, da noi può essere l'Agenzia Italiana del Farmaco, e ci dice se quella farmacia è illegale. Purtroppo siccome i criminali fanno clonazione dei siti, quindi riescono anche a falsificare il bollino, bisogna stare un pochino attenti. Quindi se ma non si riconosce? Si vede? Sì, si riconosce, ma è vulnerabile, quindi è un inizio. Spesso questi siti non hanno una sede fisica, parlano più lingue, ci sono errori grammaticali, vendono... Scrivono malissimo, infatti, cioè proprio errori di grammatica. Perché noi partiamo anche con l'algoritmo, per farvi capire. Spesso ci sono recensioni di clienti molto entusiaste, che parlano della vendita su quel sito. Questo però posso dire, Enrico, questo è un classico però, cioè in tantissimi forum e siti trovi queste recensioni di che parlano di prodotti in maniera entusiasta, perché insomma è un modo in cui anche a volte le aziende surrettiziamente, si può dire, fanno un po' di questo marketing. Questo è un fenomeno più generale, che forse come anche gli errori di grammatica, se li facciamo tutti. Ho molti amici che potrebbero essere riconosciuti dal vostro algoritmo come un sito veramente fasullo se l'errore di grammatica è il problema. Cioè non riguarda soltanto i truffatori. Di errori grossolani. No, sto scherzando, ovviamente. Certo, perché quello che noi abbiamo fatto, cominciando questo progetto europeo alcuni anni fa, stiamo parlando di già di 4 anni fa, ci siamo messi a lavorare con Interpol perché avevamo scoperto che questi siti illegali venivano rintracciati manualmente dalle polizie nazionali e internazionali. Ci sembrava qualcosa di preistorico. E quindi nel nostro gruppo di ricerca, dove ci sono criminologi, statistici e informatici, abbiamo detto aiutiamo l'Europol a fare qualcosa di più efficiente. E questo sistema che abbiamo chiamato FAST, perché il progetto si chiama Fake Care, quindi Fake Care Alert System Tool, quindi uno strumento di allerta veloce, non fa altro che classificare siti internet legali e illegali sulla base di alcune regole e ci prende. Quando abbiamo promosso questa cosa, Europol ci ha contattato e ci ha chiesto di essere praticamente l'unica università a far parte di questa nuova unità dell'Europol anticontraffazione che è nata a luglio. La cosa ci ha fatto molto piacere e da lì cominciamo a lavorare. Direi che l'hai spiegata benissimo. Senti, quindi abbiamo detto il logo europeo contraffatto, errori di grammatica, recensioni entusiastiche di cui bisogna diffidare sempre. C'è qualche altra indicazione per rendersi conto che stiamo comprando un farmaco contraffatto e quindi anche che stiamo commettendo un errore, qualcosa di pericoloso anche per la nostra salute ci picchia? Enormi sconti e promozioni massicce per quantità ingenti. Io non so se noi ci vogliamo comprare 100 pacchi di aspirine alla volta, è una cosa abbastanza strana. E come dicevo, il fatto che non ci sia richiesta la prescrizione, che per un sito italiano non è possibile, perché in realtà per tutto ciò che si compra con prescrizione medica bisogna ancora andare alla farmacia fisica, che se siamo cittadini di questo paese. È un inizio per fare attenzione. Sul sito web del nostro progetto ci sono poi tanti altri dettagli e anche, diciamo, consigli per gli acquisti sicuri per i cittadini, che spesso non sanno neanche che si può comprare medicine online, anche se è da qualche mese che la cosa è possibile. Da qui poi siamo partiti per lavorare, lo stiamo facendo con la nostra startup di Ateneo, chiama Intelligy, sulla contraffazione in generale. Cioè questo algoritmo lo stiamo testando su tutti i siti internet, su tutti i prodotti contraffatti. Cioè quindi presto ci sarà un algoritmo per ogni tipo di contraffazione sul web, forse? Immaginatevi che è un commercio che da 350 miliardi di dollari ogni anno al mondo, circa il 2,5% del commercio mondiale è contraffatto o piratato. Solo in Europa 85 miliardi, e spesso si dice tanto sono le aziende, sono grandi aziende, ma in realtà è un problema economico, un problema di posti di lavoro, un problema sulla salute. E quindi, siccome internet è uno strumento velocissimo ed ovviamente il modo più facile per vendere prodotti contraffatti, aiutare le forze di polizia ma anche le aziende private a riconoscere rapidamente dove questi prodotti sono postati, venduti, è qualcosa che è sicuramente utile. Noi facciamo ricerca applicata e cerchiamo di risolvere problemi concreti, e questo è il nostro lavoro. E il vostro lavoro è un lavoro fondamentale, perché penso che tutto il web, il grosso problema di oggi e sarà sempre di più in futuro, è il problema della credibilità. Di siti ce n'è sempre di più, ormai sono miliardi e miliardi ed è impossibile muoversi, e quindi la cosa che mi chiedo se il vostro lavoro andrà anche, o il vostro o di altri, andrà anche in una direzione di fare delle classifiche dei siti, non solamente per la contraffazione, anche appunto per la credibilità di un sito anche di informazione, per cui uno a un certo punto avrà un punteggio e dice è un sito credibile oppure è un sito strapieno di bufale. È un problema reputazionale, c'è sicuramente. Giusto, noi lo chiamiamo reputazione. Un problema di identità del sito, perché io apro un sito internet ma non so cosa ci sta dietro, e sta sempre più succedendo che si rubano le identità, si rubano i siti, cioè si clonano siti. Io credo di acquistare da qualcosa che ha una reputazione, ma dietro c'è un criminale che ha clonato il sito esatto. Reale. Quindi lo stiamo facendo con la startup dell'università, stiamo costruendo un'app che sarà data in mano ai clienti in in poche parole, adesso è molto più complessa di così, fotografo il sito e l'app mi dà una risposta. Lo stiamo facendo proprio sulle farmacie legali online e penso che lo estenderemo anche a tutti i siti che possono vendere merce. Bene, questa è una buona notizia. Grazie Andrea De Nicola, dobbiamo fermarci qua. Di Crime, l'Università di Trento, un gruppo di ricercatori che insomma il crimine proprio non lo riescono a mandarlo giù, e che abbiamo già sentito per quell'altro algoritmo che riesce a prevedere il crimine prima che quasi che avvenga, è uno strumento nelle mani delle forze dell'ordine importante. Faremo un aggiornamento più avanti, adesso dobbiamo fermarci perché c'è il traffico e poi dobbiamo dare un altro indizio per il personaggio della settimana. Nella gara d'esordio non gli è tremata la terra sotto i piedi. Qua più che un indizio direi, ragazzi, forza. È un rigore. È un rigore a porta aperta. 800 e anche dire che è un rigore è un aiutino. 24-0024, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, torna Make Fair, la fiera dei makers a Roma, e torna con noi Massimo Temporelli. Ciao Massimo. Oh, che piacere risentirvi, Alessio, Carlo. Eccolo. Ciao. Buongiorno. L'abbiamo Ciao. Strappato a conferenze in giro per il mondo, Temporelli, che ormai insomma non ti ferma più nessuno, Massimo. Sì, sono sempre sul treno, su. Sempre a parlare di innovazione, e in questo caso di questo appuntamento che ritorna. Quali sono le ultime novità, le ultime tendenze in questa fiera dei makers, che sono un po', come dire, gli artigiani del futuro, no? Bisogna guardare lì per vedere da che parte va il mondo. Sì, sta cambiando un po' tutto. A me fa piacere ricordarci a noi tre, al nostro pubblico, che noi tre, 2 anni fa, parlavamo di lavori del futuro, no? Vero. E un po' scherzando, un po' no, dicevamo che sarebbe stata un po' la soluzione, non dico la crisi, ma a molti dei problemi che affliggono la società contemporanea e il lavoro, no? Diciamo, potremmo fare i contadini urbani, potremmo fare gli artigiani 2.0, potremmo certo. fare gli arduinisti, i piloti di droni. E i numeri che stanno saltando fuori, tra le tante segnali, dei numeri positivi che ci sta dando questo movimento, quello del Maker è sicuramente uno di questi. Cioè, se pensiamo che siamo partiti dall'euro con circa 35.000 visitatori, poi l'auditorium, poi la Sapienza, l'anno scorso, quest'anno a Fiera di Roma, proprio perché si sta ingrandendo il movimento, sono previsti 100.000 visitatori. Tre volte tanto. La più grossa novità, no? Cioè una fiera che è nata 4 anni fa, è un movimento che è nato poco prima. Quasi oggi, un movimento clandestino, sembrava, no? Sì, sembrava un po' una roba da nerd, da outsider. In realtà oggi andate in fiera a Roma, vedrete le grandi aziende. Adesso non fatemi citare i nomi perché sennò faccio pubblicità, ma i nomi che hanno fatto la storia dell'elettronica, la storia dell'industria negli ultimi 200 anni. Quindi vuol dire che anche loro si sono resi conto che non è più un giocattolino per bambini, quello, il movimento del making, dell'autoproduzione, della digital fabrication, di internet delle cose. Sono queste le grosse novità della Maker Faire. In particolare, se mi permettete, so che certo. avremo pochissimo tempo, però mi piace l'idea che si stia allargando l'area dedicata ai bambini. Cioè, sempre di più dobbiamo insegnare ai giovani a usare le nuove tecnologie, in particolare il coding e la robotica. Poi non ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto la nostra rubrica Lavori del Futuro, ma sta venendo su velocissimo un movimento chiamato, un settore industriale chiamato Internet delle cose, che è previsto che entro il 2020, quindi tra poco, connetterà tutto, dallo sì. campo al rubinetto alla bambina. Io ne sento parlare così al bar, da gente, questo internet, tutti lo citano come se fosse... Però che cos'è c'è sta roba, Massimo? Ma fondamentalmente sono sensori che verranno immersi negli oggetti, che saranno sì. chiamati smart objects, e ci permetteranno di misurare dei dati dall'ambiente. E gli oggetti cambieranno attuando delle azioni in funzione dell'ambiente che li circonderà. Sembra difficilissimo, in realtà poi stiamo parlando di cose che si possono qualcosa fare. Ho capito anch'io, questo è già un buon indizio, qualcosa ho capito ma anch'io. Ma è nella direzione della domotica, che tu entri in casa e c'è il giusto clima? è la domotica espansa all'intero pianeta, cioè la domotica si chiudeva in perfetto. Casa, qualunque oggetto parlerà con la rete. La domotica 4.0, ma avremo tempo di parlarne e sicuramente ci risentiremo. Ciao Massimo, intanto ciao, grazie, Massimo, grazie per averci dato un'idea di quello che accadrà a Maker Faire in questo weekend. Siamo in chiusura, abbiamo Enrico da Pescara per rispondere, credo, al personaggio della settimana. Enrico, e per chiudere anche la puntata di oggi, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi avete dato un rigore in movimento, spero sì. Che da Pescara di aver individuato sì. La squadra di calcio della Matrice. Eccolo lì. Vi abbiamo aiutato, e però hai segnato assolutamente. Hai vinto, è il nostro personaggio della settimana. Perché torna in campo e quindi un segnale. È vincente. Dall'Abruzzo sarebbe stato grave non individuarlo. Giusto, grazie. Ti porti a casa i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale di Milano. Noi siamo in chiusura, Carlo. Io volevo solamente dire che oggi ho l'ennesima presentazione del mio libro a Palazzo. È una presentazione alla quale tengo moltissimo, perché un anno fa una signora, un'amica di mio padre, che ho scoperto che fosse un'amica di mio padre, mi ha chiesto di questa presentazione, e siccome lì è sepolto mio padre, avevo detto lì farò la mia ultima presentazione. In realtà poi mi hanno chiesto altre presentazioni, ne avrò altre, però oggi è la presentazione di Pallanza, ne sono felicissimo, alle 17:30 a Libreria Spagna.